dice, Marta dice, mi fa male il bacino, ah! Marta dice, Marta dice, mi fa male il bacino, ah! Eh? Il bacino? Sì, il bacino. Ruota bacino, ruota bacino, ruota bacino, ruota, ah! Gira la testa, gira la testa, gira la testa.